Questo libro offre un punto di vista, a mio dire, molto interessante su quella che è la composizione delle classi indigene, come vengono definite dall'autrice, nella Francia contemporanea. I barbari sono precisamente coloro che scelgono di resistere ai processi di assimilazione che di fatto funzionano nella Francia repubblicana. Il grande mito dell'integrazione nella società francese di tutti i neri, gli arabi, di tutte le figure che hanno popolato la società francese a partire dalla diaspora che ha seguito la fine della seconda guerra mondiale, processi di decolonizzazione, sarebbero formalmente cittadini francesi. Peraltro in Francia, diversamente dall'Italia, esiste lo ius soli, per cui se nasci in Francia sei cittadino francese, ma come il libro ci spiega, i processi di integrazione, più precisamente, funzionano di fatto come processi di assimilazione che annullano le identità, le culture, il portato di questi soggetti, per cui restare barbari è un'esigenza di non rimanere assimilati alla civiltà occidentale. È molto interessante che l'autrice insiste in modo particolare sul fatto che non esiste un'idea originaria da difendere, ma semplicemente restare barbari vuol dire non fare la fine degli occidentali mangiati nei meccanismi della produzione del capitale. Quindi restare barbari è un'indicazione che viene, diciamo, definita per i neri e gli arabi in Francia, in particolare nelle banlieue francesi, ma che di fatto penso possa anche funzionare come un'indicazione per tutti quanti, anche in Italia, anche bianchi occidentali, che non vogliano rimanere appiattiti sulle logiche e le dinamiche del capitale. Tra l'altro si sta parlando molto in queste ore delle proteste in Francia per l'omicidio del ragazzo di 17 anni da parte della polizia francese. E in che modo restare barbari può aiutarci a capire meglio, diciamo, ciò che sta accadendo? In un'intervista che abbiamo fatto con Luisa Yousfi proprio ieri per discutere di quello che sta accadendo in Francia, che è stata pubblicata questa mattina sul Manifesto, lei esordisce dicendo: in restare barbari ho provato a sfatare il mito della piena, completa integrazione di arabi e neri nella società francese. Questo è un mito che non corrisponde alla realtà, perché la realtà è quella di cittadini di serie A e cittadini di serie B, per cui la polizia nelle banlieue francesi ha legittimità di sparare per uccidere anche un adolescente. È in questo senso quindi che restare barbari ci offre delle suggestioni che ci permettono di capire realmente quello che sta succedendo in Francia. Peraltro la stessa Yousfi nell'intervista sottolinea quanto sia cresciuto il timore da parte delle istituzioni francesi rispetto a una possibile alleanza che nei grandi processi di mobilitazione che hanno interessato la Francia negli ultimi mesi e anni, penso ad ultimo le grandi mobilitazioni contro la riforma delle pensioni, c'è questo timore che si possa creare un'alleanza tra i neri e gli arabi delle banlieue e le classi popolari bianche che vivono dentro i processi di precarizzazione, impoverimento o sempre più spinti. E allora, di fronte a questo divenire barbari, se così possiamo dire, della società francese, da questa esigenza di resistere alle logiche e alle dinamiche della società capitalista, che riguarda sicuramente i neri e gli arabi, ma può riguardare, letta in questa cornice più generale, anche le classi bianche popolari francesi, ecco, da questa alleanza sorgono dei timori, per cui abbiamo visto un cambiamento di atteggiamento da parte delle istituzioni. Quando nel 2005, per la morte di due ragazzini in una dinamica tipica da banlieue, ragazzini inseguiti dalla polizia, si erano rifugiati in una cabina elettrica ed erano morti folgorati, un episodio dal quale partirono le famose rivolte del 2005 nelle banlieue francesi, Sarkozy in particolare parlò di racaille. Questa è feccia, la feccia della società che dobbiamo reprimere. Anche questa volta, rispetto alla risposta all'omicidio di Nahel, che si è prodotta subito a Nanterre, nella periferia parigina, la risposta delle istituzioni è stata quella di mandare 40.000 poliziotti in assetto antisommossa. Nello stesso tempo, però, forse proprio per frenare, per normalizzare, provare a normalizzare una situazione, il poliziotto che ha sparato e ucciso Nael è stato incriminato per omicidio. Ecco, si può quindi registrare un cambio di atteggiamento tanto da parte istituzionale, che fa uso massiccio delle forze di polizia, ma poi sul piano del diritto interviene contro questi atteggiamenti, e anche la possibilità di una nuova alleanza sociale di classe trasversale alle gerarchie della razza, che ha come obiettivo mettere in discussione lo stato razziale su cui si fonda la Francia e in particolare l'intera società occidentale.